Il volume va benissimo. Il volume è perfetto. So, yeah. Sa. La tua musica, eh? Questo volume va benissimo. Il volume è perfetto. So. Sono adesso in radio, ok? Quindi non lo so, prova a fare. Se poi ti vuoi cambiare nomignolo, nome di se non vuoi che escano dal tuo bagaglio, non so, inventi un nome d'arte nuovo, non so, però cioè non le musiche elettroniche che fai tu di solito, seppur sono belle. Converrebbe mettere prima una base di batteria insieme a una di basso e poi dopo la salvi, ne registri sopra, poi dopo io e te sopra ancora. Sono così le canzoni ora, eh. Tutto di prima è un casino. Mi può dire tante cose, una lacrima sul viso. Io mi adatto alla tua musica, eh? Questo volume va benissimo. Io mi adatto alla tua musica, eh? Questo volume va benissimo. Il volume è perfetto. So, yeah. Sa. Quindi da qua. No, devo avvicinarmi per. Così. Va benissimo così, guarda. Che senso panorama? Devi avvicinarti. Volevo dire, se provi a il tuo bagaglio, non so, inventi un nome d'arte nuovo, no? Che elettroniche che fai tu di solito, seppur sono belle. Io mi adatto alla tua musica, eh. Questo volume va benissimo. Il volume è perfetto. So, yeah. Sa. Quindi da qua. No, devo avvicinarmi per. Così. No, va benissimo così, guarda. Non so, inventi un nome d'arte. Seppur sono belle. Converrebbe mettere prima una base di batteria insieme a una di basso e poi dopo la salvi, ne registri sopra. Poi dopo io e te sopra ancora. Sono così le canzoni ora, eh. Tutto di prima è un casino. Negli anni 60 c'era questa cosa che non potevi sbagliare quando registravi. No, ti volevo dire che negli anni 50, negli anni 60, quando registravano le canzoni, andavano di prima, tutti, una volta e basta. Non potevano fare tante cose. Non è come ora, capito? La, mi può dire tante cose, Mi può dire tante cose, una lacrima sul viso. Mi può dire tante cose, una lacrima sul viso. Una lacrima sul viso. Mi può dire tante cose, una lacrima sul viso. Mi può dire tante cose, una lacrima sul viso. Troppo il volume. Poco di meno, ecco, così. Vicini con i forconi. No. E le clave incendiate. Ti uccidiamo, uccidi, muori! Voglio dormire! Io mi adatto alla tua musica. Io mi adatto alla tua musica, Questo volume va benissimo. Io mi adatto alla tua musica, Questo volume va benissimo. Il volume è perfetto. tante cose, una lacrima sul viso. Troppo. Frammentario. Va bene, no, abbassa un po' di lei. Abbassa un po' di lei. Ecco. Perché hai intorcigliato qua?